Energia pulita? Non sempre, almeno per il fisco. L'evasione fiscale nel settore è in crescita, soprattutto grazie all'evasione IVA e alla compravendita di certificati verdi, che dovrebbero regolare le emissioni di gas serra da parte delle imprese. Pochi mesi fa la Guardia di Finanza di Taranto ha scoperto un'evasione record di IVA, pari a 46 milioni di euro, che riguardava la Vestas Italia, multinazionale danese con stabilimento di produzione a Taranto, leader nelle turbine e pale per l'energia eolica. Ma non è un caso isolato. L'anno scorso le Fiamme Gialle hanno effettuato oltre 1000 controlli fiscali in tutta la provincia, scoprendo evasioni dell'IVA per 96 milioni di euro. Il fenomeno è in crescita anche al nord, come si capisce dai 2 milioni di euro di evasione scoperti 2 mesi fa in una società del veneziano, ma è soprattutto a sud, in particolare nelle province di Catanzaro e Crotone, che il fenomeno assume sfumature inquietanti, intrecciando evasione e interessi della criminalità organizzata. Per la Direzione Nazionale Antimafia, le cosche fanno investimenti e acquisiscono intere aree, ma il vero affare è la vendita dei certificati verdi alle multinazionali dell'energia, un business valutabile in diversi milioni di euro. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.